Now boarding. Now boarding. Welcome to the radio connection. Is it time to board? At the drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shubidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te. At the drive. Bentornati a Now Boarding Radio. Questo era un coretto a cappella fatto da tutta la crew di Now Boarding, perché questa sera per l'ultima puntata ci siamo tutti, non scherziamo. Puntata numero 30, io volevo dire che la radio ce ne riconosce solo 28, ma noi abbiamo registrate 30 sul campo. E... siamo un po' la Juventus dei programmi radio siamo. Esatto, benvenuti insomma da Francesco e fate voi, presentatevi. Allora, Lorenzo e poi un attimo che passo... gira la ruota. Io sono Marco. Oh, finalmente lo sentiamo. Sì, e finalmente ci sono anch'io. Mi hanno dato questa occasione di condurre. Spero di non mandare in vacca tutto quello che è stato fatto in un anno. Lo stai già facendo. Vorrei precisare che siamo a cerchio. Io sono Riccardo, ho 23 anni. Non bevo più da... ragazzi, Riccardo Torrisi, Now Boarding. Da due minuti, sì. Stiamo facendo un giro di spritz, ragazzi, bisogna festeggiare qua, no? E passerei la parola al mio compagno. Chiudiamo il cerchio con il sottoscritto David. Ciao David. Ciao. Parlaci della tua storia. Della mia storia? Sì. Sono qui per caso. Ok. Ma che faccia mi trovo davanti? Io vi ho tutti davanti, che bello. Sì, Checco davanti a noi in front off. E noi siamo messi peggio, quindi. Sì, sì, sì. E tra me e voi una cortina di spritz nel frattempo. Questa puntata come la facciamo, Lorenzo? Allora, ci dedicheremo ai festival estivi, prima italiani e poi nel resto dell'Europa. Parlando un po' della storia e poi di quello che succederà quest'anno, gli ospiti che ci saranno, le date, i prezzi, insomma rimanete sintonizzati che c'è tanto da dire. E poi diciamo ognuno dirà le sue preferenze sulle puntate che gli sono piaciute di più, quindi una puntata bella densa. Lanciamo così la prima traccia, la strada di Modena City Rembrandt. In realtà non l'ho scelta a caso, ma l'ho scelta per i nostri ospiti, quelli che hanno voluto prendere la strada guardando molto al di là di altre persone. Buon ascolto. Ho tenuto una faccia, un nome, una lacrima o qualche risata. Abbiamo bevuto a gollo e fatto tardi nei bar di Lisbona. Riscoperto le storie d'Italia sulle note di qualche canzone. Abbiamo girato insieme, ascoltato le voci dei matti, incontrato la gente più strana e imbarcato compagni di viaggio. Qualcuno è rimasto, qualcuno è andato e non si è più sentito. Un giorno anche tu hai deciso, un abbraccio e poi sei partito. Buon viaggio hermano querido e buon cammino ovunque tu vada. Forse un giorno potremo incontrarci di nuovo lungo la strada. In tutti i paesi e le piazze dove abbiamo fermato il furgone, abbiamo perso un minuto a ascoltare un partigiano o qualche ubriacone. Le strane storie dei vecchi al bar e dei bambini col tè del deserto sono state lezioni di vita che ho imparato e ancora conservo. Buon viaggio hermano querido e buon cammino ovunque tu vada. Forse un giorno potremo incontrarci di nuovo lungo la strada. Sui tempi andati o sul passato e le solite storie. Bentornati su Now Boarding Radio. Questi erano i Modena City Ramblers con La Strada. Bravo, te lo ricordi ancora, no? Davide, bisogna precisare che è un po' alticcio. No, non è vero, assolutamente no. Solo emozionato perché è veramente... di uomo che non regge due spritz. Ragazzi, la mia è pura emozione. Ti vergogno, siamo ti così in tanti oggi che... Sei emozionato? Sono emozionato. Ok, bene, andrei avanti dopo il pianto di prima. Direi che potremo anticipare un attimo cosa sarà quest'estate. Cosa vivremo quest'estate? Direi che innanzitutto si potrebbe partire da un gran full moon DJ Festival alla spiaggia del Faro Jesolo. Non che abbiano bisogno di pubblicità, però non gliela facciamo lo stesso perché c'è il signor Skrillex. avete capito il genere. Direi che lui è valido. Full Moon, ragazzi, come al solito, con una conferma, tanta roba. Tanti anni che lo fanno, sempre più gente che viene un po' dappertutto. Direi di sì. Parecchi viaggiano non per è solo Davide con l'altizio. Direi Full Moon. Poi cosa abbiamo, David, di interessante? Beh, interessante è una realtà che è cresciuta negli ultimi anni qua nella nostra zona. No, Davide, ti ho chiesto cosa abbiamo di interessante oltre al Full Moon. Quello no, assolutamente non lo so, questo lo sei te. Direi che potremmo andare avanti, sempre sul discorso Jesolo, date da segnare, Festa del Redentore al... sai cosa c'è la Festa del Redentore? Certo che sì, verso agosto, giusto? Sì, ma cosa c'è? Non lo sai. Pista azzurra sono i Chemical Brothers, ragazzi. Ritornano. Sei tu che sai queste date, che vivi queste date. Io vivo più. Ritornano da noi nel Veneto i Chemical Brothers e spaccheranno i culi come al solito, si presume. E con tanti altri bravi artisti, se vogliamo così chiamarli. E poi? E poi, come ti stavo dicendo prima, vedi, io passo dai festival, quelli più ridotti, quelli più vicini a casa nostra. Quello che conoscete come Rock and Doc, che è diventato negli anni Venice Doc Festival, che di nuovo si presenterà qui a Noventa dal 13 al 22 luglio. E cosa possiamo dire, Riccardo? Beh, che parte come consuetudine ormai con la Notte del Fuoco, poi abbiamo Scardi e i Fahrenheit 451. Ma una cosa che non può mancare, che richiama tanta gente, il festival di Radio Company, ragazzi. Però vabbè, lo diciamo un po' per facciamo capire che siamo i figli minori, i fratelli minori. Ne parleremo tra un po' di anni, Davide. Giusto. Quando sarai su radio, su emittenti. Non penso, sai, penso mi fermerò qui, anzi mi cazzeranno. Cazzo, lascia stare. Una realtà invece che è molto più grande, diciamo, che esiste da molti più anni. Cos'è? È lo Sherwood Festival. Cos'è lo Sherwood Festival? Cosa si tratta? È un festival culturale indipendente. Guarda, ragazzi, sono così tanti che dura addirittura un mese. No, ma pensa che sui suoi palchi si esibiscono da anni le migliori band della scena indipendente. Vogliamo nominare qualche... A me sembra di aver capito che c'è anche un certo Ben Harper, se non erro. Non abbiamo idea, non so, però se abbiamo Sherwood, comunque è a Padova, nomi. Ragazzi, è vicino a Padova. Ben Harper mi sembra tipo intorno al 20 luglio. Sì, sbaglio, signor Squalo. No, senza forse. Beh, qua comunque segnati abbiamo altri nomi, magari possiamo nominare. Abbiamo i Subsonica, Manu Chao, Caparezza, Tre Allegri Ragazzi Morti. Che sono un po' come te adesso. Beh, siamo come noi tutti, penso, qui in studio. E, bene, dai, lascerei la parola a te. Ma chi vuoi, a Keiko le lasciamo la parola. Keiko, ci sei ancora? Beh, tra l'altro sentivo che lo Sherwood, io che sono... ho uno spritz in meno di voi. Mi ricordo che lo Sherwood quest'estate sarà non solo a Padova, ma anche a Venezia. A Venezia, ecco, no? Sì. Anche a Venezia. Eh sì, quando tra l'altro, Davide? Lo Venice Sherwood a Venezia, precisamente al Parco San Giuliano, quindi sostituirà il nostro Heineken Jamming Festival. Partirà dal 20 luglio al 5 agosto, quindi a... Davide, successivamente ci vede che copi. Dopo Sherwood, ci vede che copi, potevi studiare. Infatti, per tutto metà giugno, metà luglio sono a Padova, dopodiché il tutto si sposta verso Venezia, al Parco San Giuliano. Chi c'è tra l'altro quest'anno? Quest'anno troviamo nomi. Elio e i Negrita, per ora confermati. Però. Elio e le Storie Tese, sì. Perché Elio da solo, cioè, giusto. Poco. E, dai, vabbè. Basta Veneto, andiamo oltre, dai, basta andiamo Veneto. Andiamo oltre. Dove andiamo? Ci vuole più grano qui comunque, Cioè, noi abbiamo parlato delle cose... Vabbè, ma si divide la macchina, si parlava prima che il Venice Sherwood... Parco San Giuliano è andato a sostituire cosa, Riccardo? Heineken Jamming Festival, che quest'anno è a Milano. A Milano. Figa. E direi che quest'anno come nomi non si scherza. Red Hot Chili Peppers, Noel Gallagher, I'm Flying Birds, The Prodigy, poi c'è Pitbull, ragazzi, vabbè. A chi piace, vabbè, tanti auguri. Effettivamente dal tutto lo sto guardando un video con Jennifer Lopez di Pitbull. È tanto brutto. Quello in cui dicono che ha avuto un'erezione ballando con lei. Era non, quello. Non lo so. Sono sempre sul pezzo. Solo che è tanto brutto, poretto. È brutto, sì. Infatti, ma senza occhiali da sole, era la prima volta che lo vedevo. Ma nessuno l'ha mai visto. Infatti, veramente no, senza credimi, guardati il video che Jennifer Lopez, quella nuova, che deve essere tipo: che bello ballare assieme a te, balliamo assieme a te, bello danziamo. Cioè, questo è il senso della canzone. Però è figo, ha un sacco di copie e ha capito come vendersi anche lei. Questa breve parentesi si conclude con che abbiamo i The Cure e i New Order. Ecco, Sempre a Heineken, sì, non c'entra più niente. Pitbull, è finito. Come ultima festival vogliamo condividere quello di Arezzo, Wave. Mm-hmm. Ok, è una realtà che Checco conosce molto bene, anzi si è studiato. Sì, io ci sono stato qualche anno fa, quando era ancora a Livorno. L'Arezzo Wave ha avuto un po' una fase di vagabondaggio, è nato. Quindi appunto come Arezzo Wave, poi si è spostato a Livorno, l'anno scorso come Italia Wave era a Lecce e quest'anno torna a casa ad Arezzo. Dal 12 al 15 luglio, no? Sì. E beh, poi dai, Torino, chiudiamo con Torino, il Traffic, un festival gratuito che, beh, intanto l'idea di festival gratuito insomma è sempre interessante, no, Davide? Il fatto di renderlo fruibile per molti. Dal 7 al 9 giugno, quindi tra veramente poco, appunto a Torino. Uno dei primi. Sì, abbiamo qualche nome di XX, mi sembra ci siano quest'anno. Ci sono gli Orbitals, forse, a Torino. E invece volevo segnalare anche, ormai una realtà abbastanza confermata, come dire, molto conosciuta, che si chiama Ferrara Sotto le Stelle. Ah, sì. E che c'è ormai dal 96, ormai chiamano nomi sempre più grandi. Quest'anno, vabbè, insomma, è a Ferrara, ovviamente, come potete intendere dal nome, e in Piazza Castello, e quest'anno sarà dal 15 giugno al 27 luglio e vedrà come protagonisti anche After Hours, Paul Weller, Kasabian, Bon Iver, Soap and Skin e Damien Rice. E la cornice in cui viene fatto è molto bella, perché Piazza Castello di notte, insomma, tutta l'illuminazione attorno alla piazza, molto bello, insomma. Infatti, sai cosa pensavo quando ci sono stato qualche anno fa? Che deve essere ancora più bello per gli artisti stranieri. Cioè, arrivano a una città italiana, si trovano di fronte appunto a un centro storico molto bello. Credo sia molto bello anche proprio per gli artisti. Certo, vabbè, non possiamo dirli tutti, però questi sono quelli più interessanti, ecco. Sì. Altra, diciamo, caratteristica di questa puntata è che ognuno di noi ha scelto una canzone, perché in qualche modo si ricollega assolutamente a niente. E quindi, Lorenzo, tu che hai scelto? Vabbè, allora, io ho scelto un pezzo di Horace Andy, che è famoso per i Massive Attack e anche per la sua carriera reg, che si chiama Favor. E l'ho scelto perché fondamentalmente 3 anni fa sono stato al Sunsplash e ci sono andato apposta per vedere Horace Andy e non l'ho visto perché stavo malissimo in tenda per motivi che non posso spiegare pubblicamente, e quindi vorrei rifarmi di questa mancanza, insomma, con questo pezzo. Lorenzo qui mi hai tradito, non erano questi gli accordi. No, vabbè, allora io volevo mettere un altro pezzo, ma tu me l'hai proibito. No, io ho caldeggiato la scelta di questo pezzo. Sì, dovevi metterci Festival di Paola e Chiara, ci avevi promesso. Sì, dai, giornata dedicata ai festival, perché non mettere il bellissimo pezzo di Paola e Chiara? Insomma, mi sembrava una cosa carina, no? Infatti. Vabbè, ma tu sei uno di quelli che non accettano queste svendite commerciali. Va bene, comunque facciamo una piccola pausa dai festival, ma ci ritorneremo a bomba, perché vogliamo dirvi quelle che sono state le nostre puntate preferite di quest'anno, di ognuno di noi. E so che a voi non piacerà neanche una, ma noi siamo riusciti a scegliere almeno due a testa, e adesso io intervisterò ad uno il personale di snowboarding e vedremo di tirar fuori le due puntate preferite di ognuno. Sì, perché le classifiche fanno sempre bene, piacciono sempre le classifiche. Vabbè, intanto cominciamo con Francesco. Devo dirtele subito così? Sì. Beh, allora spiace. Londra perché... Londra, beh, perché ci sei tu, come in tutte. E perché sono un po' innamorato della città, ma anche perché era una puntata particolare che partiva da un libro, si parlava di un'esperienza un po' particolare, diversa, di squat, di un modello un po' alternativo di vita, e mi prendeva questa cosa, insomma. Riccardo, è ancora il mio libro Londra 00. E anche per ricordare a Riccardo che devi portarti il libro, insomma. poi l'altra? E poi l'altra, Yon Shopping, la pronuncia credo fosse quella, puntata su un Erasmus in Svezia. C'era una parola che la descriveva. Sì, perché si parlava di fica in quella... un po' di fica qua. Però se volete capire cosa vuol dire veramente, andate ad ascoltarvi la puntata. Infatti, che non penserete che noi siamo così beceri da parlare di quello di cui, esatto, a cui di pensate cui voi. Voi state pensando in questo momento. Vabbè, insomma, passiamo a Marco, che è l'uomo che tesse le trame da dietro di snowboarding. E vabbè, ogni significato secondario lo lasciamo alla vostra immaginazione. E Marco, tu hai ascoltato qualche puntata? Sì, qualcuna l'ho ascoltata, diciamo, sì. Sì, sì, certo. Diciamo che l'ho ascoltata molto a spezzoni tante volte, però... Lui era quello da scrivere gli articoli del blog, quindi insomma gli toccava ascoltare qualcosina. Comunque ci sono, dai. E niente, io a me è piaciuta molto quella di Tenerife. E sì. Perché come tutti sanno, anzi tutti quelli che come mi conoscono tutti da, sanno. Come tutti i puffi sanno che mi conoscono da un po' di tempo, sono un po' uno spiaggiante, quindi amo questi luoghi, però al di là della pura spiaggia era molto, mi ha anche molto colpito lo stile di vita che è stato descritto su questa puntata, che era una cosa molto a contatto con la natura e al di fuori, diciamo, dello stress di tutti i giorni a cui siamo anche abituati noi, sì. E quindi era una cosa abbastanza particolare per tutti quelli che magari possono vivere in una città, diciamo, come quella che siamo noi. Ok, l'altra? E l'altra era Esplorazione in nave, che è stata una puntata Focus On, se non sbaglio, o no, se, puntata o normale, no. Puntata normale per sì. modo di dire, insomma. Infatti, perché in effetti era abbastanza particolare per via della sua ambientazione, perché era in una nave e quindi era una cosa abbastanza fuori dal coro, diciamo, di snowboarding. E quello che mi ha colpito molto è stata insomma, l'esperienza di vita di questo personaggio, Marco, fra l'altro, che potrei essere io visto che ti sto parlando, e che si è trovato un po' in questa nave a contatto con delle persone molto diverse tra loro e quindi si sono intrecciate delle storie molto interessanti e davvero. Situazioni particolari. Beh, ecco. Allora, se non avete ascoltato, ascoltate. Passiamo a Riccardo. Quali sono state le tue due puntate preferite? Io direi assolutamente Barcellona. Barcellona nel corazon, signore, perché direi che è una città alla quale sono legato molto. E ci sono stato un sacco di volte. Sentire raccontare da una persona quale mio zio, che ci ha abitato 11 anni. Lo svegliamo, che era mio zio, lo zio Marco. Ah, ok. Allora 11 anni è stato come ricordarci un pezzo di vita, perché andarci sono andato tantissime volte. Rivivere le emozioni con lui anche è stata una cosa figa. Vabbè, adesso perché non piangere, insomma. Mi ricorderò, no, però mi ricorderò sempre a 12 anni. Ne avevo 13 qua. Sì, 13 nel 2000. E sono andato a vedere il Porto Olimpico. Cos'era il Porto Olimpico una volta? Cioè, non è, ragazzi, non è quello che voi con un'altra Barcellona con la scuola o qualsivoglia, morose, amici, tutto qua. Non è quello che è adesso. 12 anni fa il Porto Olimpico erano tutti dei bar, sì, locali c'erano, ma non erano strafighi, stracurati come sono adesso. E diciamo che era pieno di zoccole, ma zoccole vere. Cioè, io ho visto le mie prime tette al Porto Olimpico a Barcellona. Credo sia la motivazione una delle più valide. Seria, sì. Allora sì, hai fatto bene a sceglierla. E, se potessi tornare indietro nel tempo, e potessi far tornare indietro anche voi, mi piacerebbe che andaste a chiedere due ciupiti in questi bar. Se avete problemi mi contattate alla mia mail per chiedermi cosa sono questi due ciupiti. Non è nulla di osceno come pensate. Ciupito dovrebbe essere una pallottolina, però bevuta in un modo strano, in compagnia. Però lasciando perdere queste cose, avevo 12 anni, ragazzi, l'ho fatto 15-16, c'erano ancora queste cose. Una sessualità turbata abbastanza mass. però a parte questo, direi che comunque Barcellona è fighissima e vale la, cioè credo che anche con i voli low cost che ci sono, credo che valga la pena per tutti andarci almeno una volta, due volte, a fare anche un weekendino, è facilissimo da girare e basta. Sì, non prendo provvigioni, sostanzialmente di viaggio né nulla, però insomma sappiate che okay. È figo. L'altra? È l'altra, intanto facciamo parlare Davide. Allora facciamo parlare Davide. Ok, allora piccolo intervallo. Giustamente io non posso tradire quello che ho fatto, costruito con Lorenzo, quindi fedele alle nostre puntate Focus On. Ricordo quella, l'ultima, una delle ultime dedicata al nostro grande fratello, al nostro programma che ci sta molto vicino, che pubblica anche la nostra puntata infrasettimana e che siamo riusciti a intervistare. E sono voglio i confondateri, vivere, voglio vivere così. Voglio vivere così. E, molto interessante, in realtà nata dal nulla, che con gli anni è diventata un lavoro. Sì, è stata, diciamo, uno sposalizio per noi felice, per loro non si sa, ma insomma, li abbiamo obbligati con la forza, ecco. E poi l'altra? L'altra, sempre di Focus On, è una strada molto più, diciamo, più personale, è quel pellegrinaggio del Cammino di Santiago. Molto bella quella, sì. Molto bella, molto interessante, anche perché per caso mi è capitato di vedere più di un documentario. E le cose particolari, ecco, come abbiamo intervistato il nostro ospite, sono proprio gli incontri, no? Gli incontri che fai in questa strada. Ed è veramente una cosa soggettiva, anche perché è un cammino, sì, personale. Sì, sì. Va bene, e vorremmo sapere l'ultima di Riccardo, visto che... A proposito di strade, direi che un'altra che mi è rimasta proprio, proprio impressa a livelli imperiali. Come un marchio nel culo. Los Angeles, sì. Come un marchio nel culo, sì, sì. Fa anche male, sai. Penso anche tu, sì. Ne hai uno? Non posso io dirlo. Ok. Los Angeles, ragazzi. Los Angeles con una ragazza che ora di cognome fa McDonald. Francesca, sì. Francesca McDonald, sì. Per farla in breve, questa è nata lì e ha trovato l'amore della sua vita, ok? Non per fargli sdolcino tutto, però è una roba figa, sembra veramente un film, ascoltatela perché... sì, era nata lì col suo ragazzo, come farebbe il 90% delle ragazze che ognuno di noi ha adesso, più o meno. Sì, sì, sì. Però lei si è trovata un altro lì. Non so la percentuale delle, quindi, ragazze. Quindi non vi consigliamo di andare a Los Angeles con la vostra ragazza, perché insomma ve la fottono proprio. In tutti i sensi. Direi che... Sì, la tua? Direi che allora la mia, io scelgo dunque la puntata Focus On Volontariato, perché mi è piaciuta particolarmente l'interazione tra i due ospiti, che uno ha raccontato il volontariato in Europa, un altro il volontariato in Africa, e è stato bello appunto dividere la puntata in questo modo. E poi è stato bello proprio la differenza di vedute sul volontariato data da due esperienze completamente diverse, e in particolare quelle in Africa, che insomma l'ospite aveva molte cose da dire anche a livello politico, e insomma mi ha gustato, come dire. E poi anch'io avevo scelto quelle di Los Angeles, e però siccome ne ha già parlato Riccardo, dico Copenaghen, perché oltre ad essere la prima puntata di quest'anno è stata una storia molto interessante di questo dottorando giornalista, e che ha parlato di Copenaghen come una città in cui insomma molto sicuramente molto attraente, in cui andare non tanto in vacanza, ma se uno vuole trasferirsi è sicuramente una città da prendere in considerazione tra quelle del nord. E beh, allora potremmo fare così: dal momento che ognuno ne ha scelte due, beh, per l'estate mandiamo le repliche, no? Sempre su, certo, FM 602-200 di Radio Sandonà e sul sito www.radiosandona.it. chiaramente i podcast saranno disponibili tutti, magari Marco mettiamo anche quelli della stagione scorsa, no? Marco, muoviti, dai, forza. Sul nostro blog. E mentre appunto il mercoledì sera, come al solito alle 21, qui su Radio Sandonà andranno i podcast. Prossima canzone mi sa che tocca a me. Mi sa di sì. Allora io ho messo, non so, mi è venuto in mente per caso, di Samuele Bersani, Coccodrilli, perché... Boh, dice: non dirmi che non sei stata mai in America, che non vorresti esserci nata mai, preferisci rimanere solo qua, nella provincia. Madonna, eccetera, sei eccetera. Sempre così poetico tu. Sì o no? Samuele Bersani, Coccodrilli. Che le informazioni meteo sono prese pari dalla Bibbia. Non dirmi che non ci sei stata mai, che non vorresti esserci nata mai, che preferisci rimanere solo qua, nella provincia denuclearizzata. A 6 chilometri di curve dalla vita, e dire a tutti che sto bene, sto benissimo, a sapere che voi state bene insieme quando vi vedete. L'amicizia che non passerà mai, mi sento male, non so, per l'umidità, ai. Avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlarti, e di toccarti, e di salvarti. Come rossi il pomodoro se lo schiacci contro il muro sulla pancia. Sono Dracula in azione sotto il sole col sudore sulla guancia. Una metafora come si fa, mi viene una poesia o la verità. Ti fermeresti per la scena ancora un po', che ti riprendo, ma dove sei finito? a dare l'acqua con il tubo alla tua tica. Vieni subito a vedere, lascia crescere le pere, c'è un tramonto giapponese sopra quel paese. L'amicizia che non passerà mai, mi sento male, non so per l'umidità, ai. Avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlarti e di toccarti e di salvarti. E spunta il nuovo fiore, l'agente immobiliare, come lo volevi tu. Ma se cancelli il mio ricordo, succede che son morto, vedi non esisto più. Coprendo il buco non parlo, ma vibro come un tarlo, dopo non finisco più. Non c'è confine di proprietà, se ci si ruba la libertà. Non c'è confine di proprietà. La cariola dove va? In America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia? Doccia. Perché le informazioni meteo sono prese pari pari dalla Bibbia. Bibbia. Non dirmi che non ci sei stata mai, che non vorresti esserci nata mai, che preferisci rimanere solo qua, nella provincia denuclearizzata. E dalla provincia denuclearizzata era proprio questa la strofa a cui mi riferivo. Rientriamo in studio, Radio San Donà, 102.200, Now Boarding Radio. E adesso facciamo parlare un po' Marco, che ha scritto per un anno. Eccomi qua. E adesso ci racconta dei festival in Europa. Sono pronto. Io partirei con un festival che devo dire, mi sono un po' anche documentato, perché sono un po' fuori da questo mondo. E c'è il Roskilde Festival, che è un festival che troviamo presente ben dal 1971 in Danimarca, e quest'anno si svolge dal 5 all'8 luglio, ed è il più vecchio festival musicale europeo. E diciamo che per chi conoscesse già lo Sziget, che dopo Checco ci delizierà con un po' di caratteristiche, è un po' una sorta di Sziget al più piccolo, credo, no? Perché è sempre una specie di festival che coniuga un po' la musica con anche una serie di attività collaterali culturali, come il cinema o l'arte. Cosa dici, che è una cosa molto, molto centrato proprio sulla Scandinavia, cioè gli artisti che vanno molto in Scandinavia di lì ci passano assolutamente. Infatti ritornando anche all'Arezzo Wave, io ho visto Lucy Love a Livorno, non se la cagava quasi nessuno. Se ti vedi poi i video di lei, che è danese, a Roskilde è un tipo, idolo, sì, cioè come se ci fosse Dio due, tipo. E quindi passiamo da questo Roskilde Festival, che ve lo consigliamo a gran voce, a quello di Glastonbury. Anzi, perdonate, perché devo farmi il corso di inglese quest'estate, quindi sono ancora un po' pivellino su queste pronunce. Glastonbury, che è in Inghilterra. Purtroppo questo festival, che è ancora più grande di quello di prima, del Roskilde, quest'anno non si terrà perché, diciamo, hanno avuto un piccolo problema. Mancano i gabinetti, non sono i cessi per andare in bagno. Cos'è che non c'è? Problema logistico, diciamo così. E un po' anche di polizia, perché diciamo che è anche un festival di origine hippie, e quindi è molto legato all'uso di droghe e via dicendo. Quindi la polizia, diciamo, che avrebbe avuto molto lavoro. Quest'anno in Inghilterra ci saranno le Olimpiadi, e quindi molta dell'organizzazione e appunto delle forniture di polizia e cessi, scusate se li dico insieme, saranno dedicati senza offesa saranno nessuno. Dedicati alle Olimpiadi, e Glastonbury non potrà avere luogo, essendo molto grande e avendo bisogno appunto di queste due cose in massa. No, infatti raggiungiamo la luna, cose del genere, ma non riusciamo a organizzarci per i cessi. Assolutamente c'è una richiesta troppo grande di cessi, si vede. Infatti. E invece tu hai nominato, appunto, anzi, rimanendo in zona Inghilterra, Reading e Leeds Festival, appunto nella città di Reading e nella città di Leeds. Io, prima volta che ho letto Festival di Reading, pensavo fosse un festival di libri e letture, invece non c'entra nulla. Quest'anno dal 24 al 26 agosto, e entrambi i festival si svolgono negli stessi giorni, e praticamente si scambiano le line-up, cioè oggi tu suoni da me e domani suoni da quell'altro, e si scambiano, appunto, un po' un cavametti, insomma. Sì, un po' tutto un cavametti. E chi invece si organizza molto, molto bene sono quelli dello Sziget. Siamo a Budapest, Ungheria, dal 93, così si sono messi il buon Peter Müller Sziami e una decina di amici, e hanno organizzato quello che di fatto è diventato il festival più grande in Europa. Si trova nell'isola di Obuda, mi sembra Sziget, voglio dire proprio isola in ungherese, che non è proprio una lingua molto friendly. E boh, praticamente quest'isola in mezzo al Danubio, immaginate che d'estate diventa una vera e propria città. E già del 96 Marco aveva una scaletta, cioè dopo 3 anni, che a te avrebbe fatto parecchio gola. Slash, Iggy Pop. Tenendo conto dell'epoca me l'hai fatto parecchia gola, parecchia sì. Gola. Se me li becco adesso quasi sarebbe come andare a vedere il gruppetto nella parrocchia. Comunque. Sì, ricordo le feste di carnevale in cui Marco si travestiva da Slash. Credo che gli sarebbe piaciuto molto. Ce n'è stata solo una, comunque è abbastanza incorniciabile come... E invece quest'anno ti becchi Anna Calvi, Deus, Placebo, Korn, The Vaccines, XX, I Pogs, Killers, Subway, Goran Bregovic con la sua... Manca solo Beethoven, scusami. Paolo Nuttini, anche un nutrito gruppo di italiani, Cani, Roy Paci, Ministri, Bud Spencer, Blues Explosion, il teatro che quest'estate girerà parecchio, e Sziget che appunto è dal 6 al 13 agosto. Un mese prima, se siete appassionati dell'Est Europa, Exit Festival a Novi Sad, Serbia. Novi Sad è la città da cui viene l'ospite che abbiamo avuto nella puntata Italia-Serbia. Il festival si svolge dal 12 al 15 luglio sulla fortezza di Novi Sad, e anche questo è un festival nato nel 2000 come forma di protesta da qualche ragazzo, come forma di protesta nell'allora regime di Milosevic, e proprio voleva essere, ci spiegava Tamara in quella puntata, una via d'uscita insomma per i ragazzi serbi, e così è stato, perché anche questo è diventato uno dei più grossi festival europei. E quest'anno ci sono i Guns N' Roses. Chi è rimasto dei Guns N' Roses? È rimasto solo Axel, mi sa. Sono rimasti tipo gli occhiali di Slash messi là sopra la cassa. La chitarra, la Les Paul. Però insomma, Hercules è un Love Affair, New Order, Wolf insomma, Mother. Diciamo, se volete spendere i vostri soldi male guardando i finti Guns N' Roses, fate pure. Però fate insomma un giro in Serbia, che secondo me è più che interessante. Riccardo, questo qua ce lo racconti tu. Monegros. Monegros, ragazzi, un festival prettamente musica elettronica. Si svolge dove? Si svolge nella mia amata Spagna. E niente, ragazzi, cioè, abbiamo nomi della serie Kyle Brenner, Bloody Beetroots, Adam Bayer, poi Checo. Too Many DJs. Poi cosa abbiamo? Dubfire, Prodigy, anche quelli che c'è stato il giro alla grande. E i Prodigy, quindi direi che è una data da segnare, sì. perché 21 luglio, insomma, abbiamo lo Sherwood qui, però è Monegros, ragazzi, almeno una volta nella vita bisogna farselo. E... nel deserto, 20 ore di musica elettronica. Dopo dipende dai gusti e dipende dagli usi e costumi. Dagli usi di certe cose. No, va bene. Io ho visto delle suore una volta che ci passavo. Cioè, è una cosa simpatica alla fine. È una cosa un po' aperta a tutti. Dipende solo più fatto sei. Meglio è. Però, dai, a parte gli scherzi, 20 che, sono 2 ore da Barcellona, quindi prendete un aereo o anche da Madrid, per chi fosse comodo, magari anche siete in Erasmus là, lo saprete meglio di me cosa è Monegros. Però, data da non lasciare nel dimenticatoio, ecco. Con questa, un signor Kyle Brenner, che è anche la traccia che piace a me, perché l'ho presentata benissimo... speciale, e c'è anche lui che suona qui, e quindi ce l'ascoltiamo. Cabrani di Scania Sam. You will find me in the place I know the best. Dance and shout then, flying to the moon. Don't have to worry, cause I'll be come back soon. Understand. Eccoci tornati all'ultima puntata di Now Boarding, dopo la quale i nostri, appunto, lo staff di Now Boarding andrà in vacanza, scegliendo una delle mete che sono state puntata durante quest'anno. Comunque, volevo parlare di alcuni festival che non sono ancora stati citati, diciamo pillole di festival, ovvero il Gods of Metal, che è utile citare per i metallari. Wow! Sì, assolutamente, è il festival metal più importante in Italia e si svolgerà dal 21 al 24 giugno e ci saranno tra gli altri gente come i finti Guns N' Roses, i Motley Crue ormai in sedia a rotelle, Ozzy and Friends, i Manowar. Poi ci sarà Slash con Miles Kennedy and the Conspirators, e io non mi stupirei se salisse anche in palco con i finti Guns N' Roses, e i Darkness. E poi da segnalare il festival di Pukkelpop, che è un festival che si tiene in Belgio ad agosto. Pensavo in Nord Corea dal nome. No, mi dispiace, però quest'anno si terrà dal 16 al 18 in particolare, e ci sarà gente da nulla, tipo Bjork, Stone Roses, Foo Fighters, Black Keys, Block Party, Wilco, Mark Lanegan, insomma, è avanti così. E infine, l'ultimo che volevo citare, di quelli di cui non abbiamo ancora parlato, è il Sunsplash. Già. E qui si apre una nota dolente, che ecco, parti con un giro minore di pianoforte. Perché era in Italia fino al 2009, poi dal 2010 si è spostato in Spagna. Ma noi abbiamo preso l'ultima edizione. Noi abbiamo preso l'ultima edizione. Poi hanno visto che a questo festival c'andava gente tipo Francesco e hanno deciso di spostarlo, insomma. E comunque dal 16 al 22 agosto è a Benicassim ed è uno dei festival reggae più importanti in assoluto. Quest'anno ci saranno tra gli altri Morgan Heritage, Mighty Diamonds, Aubryn Pass e Max Romeo. E niente, ce lo ciucciamo. Non è un caso se quando sei andato da Osoppo sono comunque fioccati i festival minori in ambito reggae. Vuol dire che, insomma, in qualche modo ci manca da queste parti. Sì, ci manca, e come, insomma. E niente, il mio ruolo qui è finito, do le dimissioni e me ne vado a Tenerife. No, a Tenerife ci sono già io, cioè non è che possiamo andare lì in due a fare lo stesso lavoro. Allora, aspetta, me ne vado pranzino. Dove posso andare? Ma sì, vieni pure tu a Tenerife, dai. A Santiago di Compostela, faccio il cammino. Facciamolo. Magari poi parti a piedi, poi dopo mi raggiungi anche a Tenerife. Comunque mi sembra che Marco volesse dire una cosa, ma lui è timido e fa fatica. Sì, a parlare. Sì, io attendo sempre il mio turno, perché non voglio prendere il posto di quelli già veterani della puntata. Comunque, per quanto riguarda il blog, avremo una piccola novità in chiusura, diciamo, perché abbiamo scelto di fare una specie di piccolo riassunto di tutto quello che è stato il cammino di Snowboarding, con una miriade di posti nuovi, di posti diversi da poter anche visitare, da poter vivere le proprie esperienze. E quindi, come ultimo post, avremo non più uno dei miei soliti fantastici testi, ma una sorta di mappa, diciamo, dove potrete ritrovarvi tutti le nostre puntate suddivise per area geografica, diciamo, no? Quindi se volete farmi un giro intorno al mondo, saprete sicuramente da che parte andare e quali posti sono quelli migliori, insomma. Beh, no, mi raccomando, ben fatto. Lo facciamo bene. Da quando lo mettiamo? Domani, sì. Beh, lo mettiamo da subito, perfetto, sì, certo. Da domani lo trovate. Ricordo ancora quella volta che Marco sbagliò a scrivere il posto, scrisse un post che non piaceva a Francesco e Francesco lo picchiò per... ma ne ho sbagliati tanti. Dopo Francesco mi tiene sempre un po' ancora le cicatrici. e mi tiene giù sullo sgabuzzino o la frusta ogni tanto. www.nowboardingradio.wordpress.com è il blog. E beh, qui dovremmo ringraziare un po' di gente. Bar Roma qui di fronte che ci ha portato gli spritz, questo fondamentalmente, e che non le abbiamo distrutto neanche i bicchieri, fra l'altro. La bottiglia, qui c'è una bottiglia di da 1,5 litri d'acqua davanti a noi e non, è qui da mesi e non parla, ma che ha una condensa da spiaggia dentro ormai. Sì. Quindi la bottiglia. E beh, Radio San Donà per averci insomma ospitato per una stagione e mezza, e tutti i nostri ospiti che ormai sono una cinquantina di persone. Io vorrei ringraziare i miei genitori che hanno reso possibile tutto questo. E, e chi fin da subito ha avuto fiducia in me quando tutti mi voltavano le spalle. I miei primi fan che mi seguivano quando ancora non ero famoso. come David, passatemi un microfono. Siamo arrivati a 167 mi piace. 167 mi piace. 1.167. 1.167 mi piace. Siamo meglio di Justin Bieber, eh? E 2 milioni di migrato anche, mi pare, tra le altre cose. E beh, questo insomma, quindi per tutta l'estate appunto abbiamo detto le repliche sempre qui su Radio San Donà, e io non riesco mai a chiudere una puntata, parlerai sempre, quindi fate voi. Quindi direi che la graffa è finita. Andate in pace. Beh, e basta ragazzi, vi saluto anch'io, grazie di tutto, grazie della sopportazione, grazie anche a te che sei sempre stato quello carino e io quello scapestrato, ho detto un sacco di cazzate, però vabbè, sono qui anche per questo, ci vogliono anche quelli come me. E ragazzi, passo la parola a Davide che vi saluterà anche lui, e basta, pace e bene, ci vediamo presto, ciao. Grazie per la fiducia ragazzi, non saprò mai in grado di condurre un programma, comunque dai, mi farò con ma che fiducia ben riposta. Guarda, finché ci sono qua io, tu fai sempre una bella figura, non preoccuparti. Forse è stato lo spritz oggi che mi ha rovinato, non è vero. Ma non ti ha rovinato. Beh, grazie a tutti. Finché ci sono qua io, tu fai sempre bella figura, frase che usa Marco con le donne. Anche. Mi è un po' sfuggita adesso, è andata un po' fuori situazione. Beh dai, presenta tu Marco l'ultima traccia. Allora, l'ultima traccia è una che mi è piaciuta molto per via della mia puntata di Tenerife, che mi dà un senso di tranquillità, e quindi vi dico state calmi, state sghisci e tenete la vostra voglia di cambiare. Questo è Too Late for Goodbyes di Julian Lennon. Ci vediamo. A tutti. Ciao.